260. Pollastra in umido col contorno di riso. Una pollastra del peso vuota di circa grammi 700, riso grammi 300, burro grammi 100, prosciutto grasso e magro grammi 40, una cipolla più che di mezzana grandezza, un pezzo di carota, un pugnello di funghi secchi. Legate la pollastra per tenerne unite le parti, poi ponete in una cazzaruola grammi 30 del detto burro e il prosciutto tagliato a striscioline. Trinciateci sopra la cipolla e la carota. Indi collocateci la pollastra dalla parte del petto, condendola con sale e pepe. Tenetela coperta e, colorita che sia da ambedue le parti, bagnatela via via con acqua calda fino a cottura completa, lasciandoci il sugo sufficiente per dar sapore al riso, ma il sugo passatelo. Il riso mettetelo al fuoco così naturale con la metà del burro rimasto, poi tirate la cottura con acqua calda e per ultimo col sugo della pollastra. A cottura completa aggiungete il resto del burro e dategli maggior sapore con un buon pugno di parmigiano grattato. Il fegatino e il ventriglio cuoceteli insieme con la pollastra e tagliati a pezzetti mescolateli fra il riso. Il risotto così preparato può anche servire per minestra e bastare a 3 persone, ma allora servite la pollastra a parte con alquanto del suo sugo e i funghi per contorno. 261. Braciuola di manzo ripiena in umido. La braciuola di manzo ripiena arrosto del numero 537 potete cuocerla anche in umido col burro tirando la cottura con acqua e sugo di pomodoro e servirla con un contorno qualunque.